Rock FM, sono le 7 e 31 minuti primi. Spadino, pagherai per questo minuto di ritardo. Ammesso che il nostro orologio sia giusto, eh. Buona giornata dall'Ariele, dalla squadra di Pane, Burro e Rock and Roll, puntata 150. Riccantoni, la nostra redazione, Isacco Rizzi. Scopriamo che Pierpaola ha un piccolo problema. Cioè, dice, beh, potrei anche bigiare. Il problema è che potrei arrivare in ritardo da voi perché insegno a Livorno. Hai ragione. Vabbè, bigia lo stesso, vai in riva al mare, che ne so. Quelle cose lì che si fanno, no? Sicuramente è rock per una professoressa bigiare. La sfida, arrivare illesi fino alle 9 del mattino. È dura vincerla quando parti già leso. E finisce male. Però ragazzi, ci avevo messo... sai che mi stavo commuovendo in questo messaggio? Fammelo ritrovare, dai. Così poi mandiamo anche Buon Natale per Oroc, che oggi è di turno alla seconda mezz'ora. Allora, ci scrive un radioascoltatore, scrive questo, va, spero di recitarlo bene. Ce l'hai una basetta un po' tenera? Bravo, qualcosa di dolce, bravissimo Spadino. Scrive Franz, è un po' una letterina a Babbo Natale, secondo me. La interpreta il DJ Ariele. Natale è un po' rock. Mi guardo in giro e mi chiedo, ma cosa c'è di rock in questa realtà? Natale è un po' rock se hai un po' di pazzia dell'Ariele, quel misto di semplicità, di infantilità e di spirito godereccio del rock che fanno di un uomo un esemplare unico. Natale è un po' rock come Freak, perché per essere demenziali bisogna avere una bella testa che dice agli altri tenetevi le vostre banalità e le vostre ingorde logiche, io ho la mia. Natale è un po' rock come la mia radio preferita, fatta solo di persone e di DJ diretti, veri e di ottima musica. Natale è un po' rock come me, che sto qui a scrivere queste cazzate all'alba, davanti al camino, guardo la mia famiglia che dorme e sta bene. Prendo la bici, mi metto le cuffie e via al lavoro, con la voce di Chuck Bird che scalda questo paesaggio gelato. Auguri, Franz. Grazie. Caro Babbo, Babbo nel senso di Natale ovviamente, ti scriviamo perché vedi, qui il Natale non lo sente più nessuno. Dicono che è una festa commerciale, anche tu però sei un po' demodé, bisognerebbe lavorarci su. Se ti presenti in slitta, ok vabbè, ma quelle povere renne, tu pensa con una moto rombante, un giubbotto ripelle. Però nero, snellisce. Ci vuole un'idea geniale, Natale, ci serve qualcosa, facciamo un Natale rock. Buon Natale, però un Natale. Mi piacerebbe tanto avere la voce del cantante degli AC/DC. Dai, dimmi di sì. Le scarpe impazzirebbero con quella barba bianca. Ehi, dove credevi d'andare? Se tutti scrivono alla concorrenza, non ti puoi lamentare. Con quel capello lungo, quel castano che fa decisamente più rock, ti straccia già in partenza, allora sai che si fa un tatuaggio rock. Un abete! Ci vuole un'idea geniale, Natale, ci serve qualcosa, facciamo un Natale rock. Buon Natale, però un Natale. Invecchiare come Mick Jagger degli Stones, ah, sì, mi piacerebbe tantissimo, anzi tanterrimo. Magari anche avere l'agendina con i numeri delle groupies, se si potesse. Non fare quella faccia, dai. Lo sai, anche tu puoi essere un rocker se lo vuoi. devi soltanto volerlo Natale, ti serve qualcosa, facciamo una solo rock. Sbaglio pure la nostra canzone. A tutti voi amici e amiche che vi svegliate insonni cantando Buon Natale per Orotti, la dedichiamo a voi oggi. Amico che sei andato ieri alla Scala, mandaci subito il numero. Guarda, non la leggo nemmeno la mail, voglio sentire in viva voce quello che è successo. Noi qua facciamo testimonianze dirette. 335-100-7777, la nostra linea di contatto. Oh, sono gli ultimi due giorni, eh? Oggi e domani, poi basta. Cioè, non ci si può più sfogare, finisce il pane, burro, rock and roll speciale Buon Natale per Rock. Però stanotte, ragazzi, mi è venuta in mente una nuova campagna di pane, burro e rock and roll. Ah, a te Freak non te l'ho ancora detta, ma quando te la dico sbarelli. Perché a Natale l'abbiamo presa così che eravamo positivi. Ma vi ricordo che le campagne di pane, burro e rock and roll di solito sono campagne contro. Pane, burro e rock and roll non ci sta. E sentirete, a gennaio, insomma, cosa combineremo. Si prosegue... Ah no, voglio solo ricordarvi che Buon Natale per Rock, volendo, potete scaricarvela su punkrockers.it. Lo trovate i link anche su radiorockfm.com. Saluto un Marco che dice semplicemente delirante questa canzone, sì, beh, era vero. E saluto anche l'altro Marco, il patentato 110. Fatti vedere all'Alcatraz che devi vedere il calendario, eh. Ricordo agli amici di Milano, sabato sera, Alcatraz, Viale Valtellina. Consegnerò il calendario 2008, l'anno della svolta, a chi lo volesse, e venerdì invece agli amici di Firenze all'Ippodromo. Basta, fatta, proseguiamo con la buona musica. E cosa c'è dopo? Il presepe vivente. Va bene, sì. Yeah, rock and roll. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time. All day and all of the night. All day and all of the night. All day and all of the night. I believe that you and me last forever. Leave me never. Yeah. Il centro commerciale Duse Giant Center vi ricorda che nel reparto bimbi potrete visitare l'inimitabile presepe vivente. Accorrete numerosi. Ehi, freak, non credevo saremmo arrivati così in basso. Io non credevo potessimo arrivare alle quattro zampe. E poi, freak, stammi almeno più lontano, no? Ariel, che mi vergogno. Fammi almeno nascondere il muso. Poi cos'è questa, l'anacotta? Come cazzo faccio a immedesimarmi in una pecora se mi cuociono il pelo? Guarda, Giulia, guarda quei due vestiti da pecora. Ma che posizione è? Si direbbe una lettura biblica del Kama Sutra. Una pubblicità sul latte pecorino alto a Tesino. O una pubblicità progresso contro il precariato. Guarda, amore, dove è finito il senso della dignità. Ti amo così tanto, Patrizio. Oh, ma stiamo scherzando? Diamoci una calmata, voi due. E calmo con le parole, che c'è gente che lavora onestamente qua, eh? Senti, calmo tu, non ti agitare, che una pecora in calore è l'ultima cosa che serve ad un presepe. Oh, ma che cazzo dici? Ma che cazzo è questa? Ok, ragazzi, fermi tutti, calmiamoci, stop! Stop un corno! C'è stato un malinteso, dai! E non mi sembra il caso di fare certe scenate qui nel supermercato. Ma che malinteso? Hanno iniziato a sfotterci da quando sono arrivati sti due qua. Ok, diamoci una calmata. Credo che l'unico modo per risolvere la cosa sia una bella partita bim bum bam. E facciamo che chi perde continua a far la pecora. Sì. Non so. Dispari! Se ci conviene. Dispari! Accetto. Vai, Patri. Accetto. Bim bum bam! Cazzo perso. Ariel, ti avevo detto di non giocare. Zitto e fai la pecora, va. Ok, dai, rimettetevi a posto. Stavamo dicendo, amore? Che sembrano due pecore in cerca dell'ovile perduto. Ti avevo detto di non giocare, Ariel. Mannaggia al padre. Mannaggia, non si gioca mai con i giovani teppisti di oggi. Thank you. Sono i Pink Floyd, ovviamente, di Young Lust. 7:46 minuti primi. Ciao dall'Ariele, buona giornata. Buon giovedì 20 di dicembre, le ultime due puntate di Buon Natale, sì, di speciale Buon Natale però rock. Attendiamo le vostre segnalazioni. Mentre devo fare un paio di appelli, il primo è questo per il patentato 472. Magro, prima ci mettiamo d'accordo che al nostro rientro dalle spese ci saremmo sentiti per una birra e poi tieni spento il cellulare. Cosa hai fatto, schifoso? Io lo faccio, cioè, non vedo perché non farlo se me lo chiedete. Mentre devo occuparmi di un caso umano che si firma Puggio, un fedelissimo di Pane Burro Rock'n'Roll, ripensaci Puggio, perché l'idea c'era e l'idea ci sembra buona, noi la sponsorizziamo. Ci racconta cos'è accaduto. Allora, decide il suo personalissimo regalo di Natale, si reca in tutta fretta al centro commerciale in pausa pranzo, se non che si becca 180 centimetri di stupidità tramutati in uomo rumeno in motorino che si schianta sulla sua fiancata. Si chiede se è un segno. Non è detto, Puggio. Non per forza è un segno. Perché, ci dice, dopo lunghi giorni di ripensamenti avevo finalmente deciso che il mio personalissimo regalo di Natale era comprarmi due caviette da chiamare Rogna e Frigo. Sono a pezzi, scrive, devo trovare nuove motivazioni. No, Puggio, ti prego, torna sui tuoi passi. Quell'uomo di 1,80 m non era contro Frigo e Rogna, secondo me avevi qualcos'altro in testa, fatti un esame di coscienza. Il segno divino era su qualcos'altro. Ma comprare due caviette e chiamarle Rogna e Frigo era buona, credo, non so, Poi vedi tu. Lancio l'appello all'altro amico di Imola, che commenta la canzone di Natale scrivendo: ogni volta che la sento mi viene una voglia irrefrenabile di tatuarmi un abete. No. Aspetta fino a metà gennaio, se hai ancora quella voglia ne riparliamo. Potremmo anche tatuarci sotto la firma di Freak, tra l'altro. No, un abete non, poi potresti pentirti, secondo me, non è detto però, Shocking Blue, Venus. mi perdo nei miei pensieri e mi chiedo, abbiamo a disposizione Roberto Fricantoni ogni giorno e anziché scoprire la Bologna del 77, buttiamo via il suo tempo così, in stupidate. Ma no, non dica così, Ariel. In fondo i nati dell'almanacco... No, i nati... sono preziosi, sono eccitanti! Bello. Lo facciamo subito? Ma sì, facciamolo! E allora in culo alla Bologna del 77, occupiamoci del 20 di dicembre! Beh, adesso le passo l'affermazione per l'entusiasmo! Grazie, bene, era il 1901, quando un certo Robert Van de Graaff, fisico inventore americano, nacque. Fu lui poi a dare il nome ai Van der Graaff Generator. Proprio lui disse: cari Van der Graaff Generator, chiamatevi come me. Esatto, ve lo consiglio perché io sono una persona che vi porterà fortuna e così è stato. 1945, auguri al batterista statunitense dei Kiss, Peter Criss. Criss, batterista il dei gatto. Kiss. Ah, che roba. Beh, che assonanze. Kiss, Kiss il batterista Criss. Dei Criss. Lei impazzisce per queste cose, eh? Sì, mi piacciono. Quasi mi come piacciono. Per il chinotto, va bene. 1946, Uri Geller. Uri. Psichico israeliano. Cos'è uno psichico, maestro? Uno psichico è, lei è un psichico? Appassionato. Io sono naturalmente molto psichico. Epatico? Anche, sì, anche molto anche epatico. Esatto. Ma pensavo a come lo avrà chiamato la mamma, la signora Urino, Geller. Urino. Uri? Urino. Urino, vieni qui a fare colazione. Comunque io posso testimoniare la bontà dell'intervento di Uri Geller, che alla televisione conosciuto? Italiana, no, l'ho visto in un programma all'interno di una trasmissione televisiva italiana, che faceva? E diceva: mettete davanti al televisore qualcosa che non vi funzioni più, per esempio una radio. Io presi una piccola radiolina transistor, così feci, e in effetti per qualche secondo, forse anche per un minuto, riprese a funzionare. No, sì? Proprio lo lei confesso. È successo a lei. È successo davvero, quindi bravo Uri Geller. Devo testimoniare a favore di Uri Geller. Ma siamo al 1947, quando nasceva Gigliola Cinquetti. Scusa, ho una battuta retroattiva, posso farla? Deve. Sa che Uri Geller? Sì. Sa che Uri Geller è molto citato nelle aule scolastiche? Perché, maestro? Perché gli studenti dicono: "Passami Uri Geller". Fatti una battuta da Martufello. Chiuderei l'almanacco. Questa la tagliamo. No. Le è venuta bene, ma le vengono così? Le pensa al volo? Passami Uri Geller. Bisognerebbe appuntarsele. Sì, si potrebbe fare un no, modifichiamola. Modifichiamola. Sì, nelle scuole meridionali. Sì? Sì? Nelle scuole meridionali usa spesso citare Uri Geller. Sa perché? Mi chiede perché. Maestro, perché nelle scuole meridionali si cita Uri Geller? Perché gli scolari, parlando tra loro, dicono: scusa, dopo la biro mi passi Uri Geller? Basta, io me ne vado. Buona giornata. Anch'io. Arrivederci. Non ci meritate. E beh, che c'è? But you didn't think I knew how to rock and roll. Lord, I got the boogie woogie right down in my very soul. There ain't no need for me to be your flower. Time, but now I'm gonna let you know. I'm gonna keep on rocking, no matter if it fast or slow. Ain't gonna stop until the 25th hour. Cause now I'm living on blues power. I knew how to rock and roll. e marmellata, inizia la giornata. Ma se ci aggiungi rock and roll, diventa una figata.